Zuppa di pelle di salsiccia. Ogni anno, Re Francis del potente regno di Red Lake dava un banchetto reale per tutti i re e nobili di 10 regni intorno. Quest'anno desiderava che suo figlio si fidanzasse con una delle principesse che sarebbero andate al banchetto. Ma il principe era innamorato della figlia dello chef reale e voleva che il mondo vedesse quanto fosse saggia e intelligente. Marie, te lo chiedo di nuovo. Mi vuoi sposare? Sei un principe, Vostra Altezza, e devi solo sposare una principessa. No, non devo. Non riesco a immaginare di sposare una donna che non può nemmeno indossare le proprie scarpe senza che 10 servi l'aiutino. Un regno non ha bisogno di pomposità del genere. Ha bisogno di una regina che sia saggia e intelligente. Le principesse sono già qui. Il re desidera che tu ne sposi una. Conosco una via d'uscita, Marie. Sai cosa significa ricavare una zuppa dalla pelle di salsiccia? Preparare la zuppa con la pelle di salsiccia è un detto danese che significa tutto e niente. È impossibile fare una zuppa con la pelle di salsiccia. Quindi, quando qualcuno prepara una zuppa con una pelle di salsiccia, significa che è irragionevole, che reagisce eccessivamente o chiede troppo. D'altra parte, se qualcuno riesce a ricavare una zuppa da una pelle di salsiccia, significa anche che è riuscito a realizzare qualcosa di veramente difficile o qualcosa di considerato impossibile. Esattamente. Quella notte, mentre tutti si stavano riunendo per il banchetto reale, il re annunciò: vorrei fare un annuncio. Come potete vedere, mio figlio è cresciuto fino a diventare un brav'uomo, un bel principe, esperto negli affari di governo, della legge e un ottimo spadaccino. È ora che si sposi con una principessa che un giorno sarà la regina di Red Lake. Proprio vero. Dici, principe di Red Lake, come farai a decidere chi sposare? Penso che una regina rappresenti il futuro dell'intero regno. Quindi deve essere indipendente, saggia e sensibile. Sì! Sì, d'accordo! D'accordo! Sì, siamo d'accordo! Quindi, se non vi dispiace, lasciate che si tenga un piccolo concorso tra le donne che desiderano partecipare. Sposerò la donna che porterà la ricetta e cucinerà la zuppa con la pelle di salsiccia. Come si fa a preparare la minestra da una pelle di salsiccia? Il sapore sarà orribile. E probabilmente sarà anche malsana. E come farà la mia povera figlia a preparare la zuppa? È una principessa! Ma se questa è la condizione, così sia. Siamo principesse. Possiamo fare tutto. Questo è così sia. Tre principesse decisero di partecipare al concorso. La prima principessa prese una gigantesca pelle di salsiccia e viaggiò in lungo e in largo portando con sé un grande entourage di guardie e aiutanti per ottenere la ricetta della zuppa. Una notte si ritrovò in una foresta. Le sue guardie costruirono un campo per lei, ma al mattino presto fu svegliata da qualche risatina. Andò alla finestra. Vide delle ninfe emergere dai fiori. Sembrava che stessero discutendo di qualcosa. Prese la pelle e uscì per incontrarle. Wow! Chi sei? Cosa fai? Ciao! Hai una pelle di salsiccia? Sì! È enorme! Mai vista una pelle più grande! È proprio quello che stavo cercando! Possiamo prenderla in prestito per qualche minuto? Certo! Le ninfe volarono in alto nel cielo, avvolsero la luce del sole intorno alla pelle e crearono una pioggia di gocce di rugiada su tutte le foglie e i fiori. Dopo, tornarono per restituire la pelle alla principessa. Grazie mille, principessa! Puoi aiutarmi con una cosa? Che cosa? Cerco la ricetta della zuppa di pelle di salsiccia. Abbiamo appena fatto quella zuppa, principessa. Abbiamo appena fatto una zuppa con la pelle di salsiccia. Non sappiamo come altro farla, ma ecco, potrebbe piacerti questo. La prima principessa tornò dal principe con la pelle. Non mi hanno detto come cucinare la zuppa di pelle di salsiccia, ma mi hanno dato questo. Sono allergico alle violette. Mi dispiace. Immagino sia giunto il momento di far provare la prossima. Quindi, ora ci provò la seconda principessa. Andò dalla sua saggia nonna per un consiglio. Zuppa da una pelle, vero? Per prepararla devi cercare la saggezza, alimentarla con l'immaginazione ed esprimerla con il cuore di un poeta. Cerca la saggezza, alimentala con l'immaginazione ed esprimila con il cuore di un poeta. Ok? Sono una principessa, posso farlo. La principessa non fece affatto ciò che aveva detto sua nonna. Riunì tutti gli studiosi, i pittori e i poeti del suo regno in un grande entourage e andò dal principe. Vostra Altezza, ho il segreto per preparare una zuppa con una pelle di salsiccia. Davvero? Tutto ciò che bisogna fare per cucinare una zuppa di pelle di salsiccia è raccogliere la saggezza, alimentarla con l'immaginazione ed esprimerla con il cuore di un poeta. Ecco tutti gli studiosi del mio regno per la saggezza, i pittori per l'immaginazione e i poeti per esprimerla. Principessa, il concorso era per te, non per gli studiosi, i pittori e i poeti del tuo regno. Ma, Altezza, sono una principessa e una principessa non fa mai niente da sola. Penso che sia tempo per la terza concorrente, Sire. Quindi ora la terza principessa decise di tentare la fortuna. Viaggiò lontano nel regno. Un giorno arrivò in un villaggio e sentì dei rumori, come se un paio di bambini stessero litigando. Sarò io il primo a raccoglierlo! L'ho visto prima io! No, l'ho visto prima io! Lo otterrò io per primo! Cosa importa chi l'ha visto prima? Entrate, prendete una ciotola di latte per questo cucciolo! Smettetela di fare la zuppa con la pelle di salsiccia! Salsiccia! Mi scusi, signora? Sì? Potresti darmi la ricetta della zuppa di pelle di salsiccia? Ricetta? Sì, sono una principessa. Ti ricompenserò profumatamente se mi darai la ricetta. Per favore! Ma non esiste una zuppa fatta con la pelle di salsiccia. Mai appena. Preparare la zuppa con la pelle di salsiccia è un detto danese che significa essere sciocco e irragionevole o realizzare qualcosa di impossibile. Oh, quindi non esiste una vera zuppa che può essere fatta con la pelle di salsiccia? No, Vostra Altezza. Oh. La principessa tornò a corte e riferì tutto. Quindi, Vostra Altezza, non esiste una zuppa simile che può essere ricavata da una pelle di salsiccia? Questo è atroce! Hai fatto lottare le nostre figlie per niente? Come osi trattare le nostre preziose principesse così? La mia povera figlia ha viaggiato in tutto il regno per procurarsi la ricetta. Sì, con un centinaio di servitori. Solo un centinaio di servitori? Povera figlia mia, e questo era tutto per niente? Vendicheremo questo insulto! Lo faremo! Ci sarà la guerra! Ci sarà la guerra, sì! Ci sarà la guerra! Sì, ci sarà la guerra! Ci sarà la guerra! Sì, ci sarà la guerra! Aspettate, Vostre Altezze, c'è una zuppa che può essere fatta con la pelle di salsiccia. Davvero? Sì. Mostracela. e non ci crederemo fino a quando non l'avremo assaggiata. Molto bene, Altezza. Portalo dentro. Grazie. Quindi, questa zuppa speciale ha 3 ingredienti. Prima di tutto, prendiamo l'acqua e la facciamo bollire per bene. Quindi, mettiamo la pelle di salsiccia. Ovviamente, poiché è l'ingrediente più importante. E quindi, c'è la terza e ultima cosa speciale di cui abbiamo bisogno. Che cos'è? È il motivo per cui questa ricetta non è ampiamente conosciuta. Che cos'è? L'oro fuso di 3 corone reali. Cosa? Sì! Questa zuppa molto speciale non può essere preparata senza di esse. Non vuoi assaggiarla, Vostra Altezza? Ora, i re e le regine erano preoccupati. È una questione di grande imbarazzo per un re rimuovere la sua corona. Però erano loro che avevano chiesto la prova dell'esistenza di una simile zuppa e volevano assaggiarla. All'improvviso, uno dei re ebbe un'idea. Si alzò e disse con tutta la pomposità che riuscì a raccogliere: Bene, assaggiare la zuppa equivale a disonorare il nostro ospite, Sua Altezza Reale, il re di Red Lake. E la nostra alta cultura reale non lo permetterà mai. Quindi, crediamo che la zuppa esista e siamo d'accordo sul fatto che deve essere deliziosa, ma non desideriamo assaggiarla. Quindi, non è necessario cucinarla. Sì, non desideriamo assaggiarla. Sì, non desideriamo assaggiarla. Molto bene, allora. Penso che sia giusto che questa fanciulla, che alla fine è riuscita a portare la ricetta della zuppa di pelle di salsiccia per noi, meriti di essere dichiarata vincitrice del concorso. Sì, d'accordo. Sì, d'accordo. Signora, accetterebbe di sposare mio figlio, il principe di Red Lake? Lo voglio, Altezza. In questo modo, Marie usò la sua sensibilità per salvare tutti e 4 i regni da una guerra mortale. Salvò i regni dal fare la zuppa con la pelle di salsiccia. Lei e il principe si sposarono e governarono il loro regno con saggezza e compassione.